Giornate, le notizie in 60 minuti. Di Roberta Giordano. Io ho due bambine piccole che tanto che non vedo, per cui una fa la giornalista in Mediaset allo Sport, è una napoletana molto simpatica, molto dolce, e un'altra una bambina di 21 anni brasiliana che è un po' la mia. Mi ha pianto il telefono dicendo che l'ho dimenticata e allora la faccio venire, insomma, senza peso. E questo, cari ascoltatrici, cari ascoltatori, l'avrete riconosciuto, è Silvio Berlusconi di qualche tempo fa in una intercettazione in cui parlava con Tarantini, faccendiere Tarantini, a proposito di, diciamo, le amiche che avrebbe incontrato nelle cosiddette cene eleganti. Per qualcuno potrebbe essere un'intercettazione bomba, fa parte dell'inchiesta di Bari questa. Già ci sono le polemiche con parlamentari di Forza Italia che dicono di nuovo la lapidazione nei confronti di Berlusconi, di nuovo una grave violazione della privacy. A proposito di bomba, noi siamo qui, siamo per fortuna integri e vivi e sempre pronti a combattere con voi. Sapete che oggi c'è stato l'allarme bomba qui nel Palazzo del Sole 24 Ore, una voce forse straniera, chissà, camuffata, insomma, aveva dato questo allarme. In realtà poi sono arrivati gli artificieri, pompieri, carabinieri, eccetera. Per fortuna, diciamo, un falso allarme. Ecco, e quindi proseguiamo tranquillamente, poi magari alla fine della prima parte di Effetto Notte torniamo a parlare, giusto, insomma, per ricordare, ecco, questa giornata un po' particolare. Parleremo ovviamente anche molto di maltempo, con quello che sta succedendo soprattutto nel centro-sud, e ci sono state anche due vittime, anzi una terza anche, che dovrebbe riguardare la Lombardia. E poi la politica, può mancarci mai la politica qui Effetto Notte, anche perché stasera c'è la riunione della Lega Veneta, che deve decidere che fare rispetto alla Lega Nazionale, con Salvini che aveva avvertito Tosi, mi raccomando, allora o siamo tutti sulla stessa linea o fuori dalla Lega. Tutto era cominciato dalla candidatura unica di Zaia nelle prossime regionali in Veneto. Che pensate che debba fare? Che farà Tosi questa sera? Ci sarà più tardi la riunione, lui andrà a questa riunione, dice sono arrabbiato ma lucido, e quindi come ne uscirà da questa riunione? Cosa deciderà la Lega Veneta rispetto alla Lega Nord di Salvini, alla Lega Centrale? Ci sono sempre i vostri canali di partecipazione qui Effetto Notte, che sono la pagina Facebook di Effetto Notte, che è sempre lì per voi in qualsiasi momento, e poi anche gli sms in diretta, il 349-238-6666, 349-238-6666. Cosa deciderà secondo voi Tosi questa sera? Poi ci occuperemo naturalmente anche di altre cose. Io direi di cominciare a raccontare intanto in sintesi la giornata. Maltempo, il centro-sud flagellato dal vento e dalla pioggia, due le vittime, una in Toscana e una in Umbria, ma poco fa c'è un'agenzia anche di un uomo che in Lombardia è stato buttato giù dalla bicicletta per una raffica di vento, un uomo di 76 anni che purtroppo è morto, 200 persone intanto salvate in Alto Adige da una cabinovia bloccata. Le decisioni della Banca Centrale Europea dopo le parole di Draghi, euro e spread in caduta libera, dal 9 marzo acquisti di titoli di Stato. La visita di Renzi a Mosca nell'incontro con Putin, in primo piano Libia e Ucraina e anche le sanzioni. Le tensioni nella Lega Nord, Tosi forse verso lo strappo, il faccia a faccia di oggi non scioglie i nodi sulle regionali, stasera riunione della Lega Veneta. Per lo sport, il calcio, ancora Coppa Italia con Juventus e Fiorentina, e in Formula 1 Alonso senza memoria per una settimana dopo l'incidente di 11 giorni fa. Partiamo quindi dalle condizioni meteo che stanno provocando danni nel centro-sud, disagi sulle strade, ferrovie, alberi abbattuti dal vento con raffiche fino a 160 km orari, migliaia di cittadini senza corrente elettrica, scuole chiuse, evacuate e anche purtroppo delle vittime. Il vento ha bloccato anche una cabinovia in Alto Adige. La Toscana, flagellata da raffiche di vento che hanno raggiunto i 160 km orari, conta una vittima. Si tratta di un uomo di 41 anni, padre di due bimbi piccoli, morto a causa di un masso caduto sull'auto a bordo della quale stava percorrendo la via Ludovica che collega Lucca alla Garfagnana, illesa ma sotto shock la donna che viaggiava con lui. Gravi disagi e danni in tutta la regione, 100.000 clienti Enel ancora senza energia elettrica, a Firenze chiuso per motivi di sicurezza il giardino di Boboli, mentre una tempesta ha spazzato Forte dei Marmi, ovunque tetti scoperchiati e grossi alberi divelti. Il governatore della Toscana Enrico Rossi. Quadro allarmante, io stamane ho dichiarato lo stato d'emergenza, è una cosa che non si era mai vista, di questa vastità e di questa intensità, si parla apertamente di un uragano. Diciamo con chiarezza, e l'abbiamo già detto a Palazzo Chigi, che abbiamo bisogno di una mano per aiutare le zone più colpite. Il forte vento non ha risparmiato neanche le regioni del nord. In Liguria, raffiche fino a 125 km orari hanno creato problemi al porto e all'aeroporto di Genova, oltre che danni e disagi in diverse zone della regione. In Alto Adige, il vento violento ha sradicato un abete di 40 metri che è finito sulla fune della cabinovia Ciampinò in Val Gardena. Molto spavento tra 200 sciatori rimasti bloccati, tutti alla fine tratti in salvo dalle di soccorso e dagli uomini del soccorso alpino. Roberta Pellegatta, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Una vittima nelle Marche, una donna di 49 anni, madre di due figli, che è rimasta schiacciata da un grosso pino mentre andava al lavoro. I danni sono stati pesanti anche sul versante adriatico, sulla costa e nell'entroterra. Onde che hanno superato i 3 metri sul litorale di San Benedetto del Tronto e situazione difficile nella zona di Senigallia, già devastata da un'alluvione il 3 maggio scorso. Allerta che riguarderà anche la giornata di domani, a confermare la Protezione Civile. Abbiamo esteso di nuovo la criticità idrogeologica, quindi abbiamo emesso un bollettino in cui portiamo il livello d'allerta per la giornata di domani nella parte sud, quindi centro-meridionale della regione, l'abbiamo portata elevata. In Abruzzo neve e disagi alla circolazione nell'entroterra, a Pescara sottopassi allagati e strade invase dall'acqua, scuole chiuse domani e sabato, alberi caduti, allagamenti, semafori non funzionanti e traffico in tilt a Roma. A Napoli è crollato un muro nel quartiere Chiaia, travolgendo 8 vetture che erano parcheggiate in strada. Anna Rita Lambrosio, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E vi dicevo, ecco, l'agenzia di un uomo che è morto in provincia di Milano a Buscate, un anziano, sembra per una forte raffica di vento, ha perso il controllo della bicicletta ed è finito sul cofano di un furgone che purtroppo poi lo ha investito. Un uomo di 76 anni, Luigi Merlotti. Poi parleremo a proposito dei danni in Toscana e in Umbria, anche con i sindaci di Firenze e di Urbino. Vorrei parlare anche con la sindaca di Cortona, Francesca Basanieri, che saluto. Buonasera. Buonasera a voi. Avete avuto danni anche voi, Cortona, vicino Arezzo. Un campanile di una chiesa del 600 è crollato? Sì, esattamente. Questo è uno dei danni che ci sono stati oggi. E poi numerosi altri danni, sia strutture pubbliche che private. Ma si tratta di della chiesa più importante della cittadina di Cortona? No, è una chiesa periferica del comune, è comunque una chiesa molto importante dal punto di vista culturale. Quindi adesso cosa pensate di fare? Rossi, il presidente della regione Toscana, ha chiesto lo stato di emergenza, ha chiesto un aiuto dallo Stato. Noi chiederemo sicuramente anche noi lo stato di emergenza e di calamità, sicuramente, perché comunque i danni, come le ripeto, sono tantissimi. Domattina sarà la giornata della verifica di quello che è stato, della verifica dei danni e se ci sono degli interventi da fare sulla pericolosità di alcuni edifici. Però sicuramente avremo bisogno di un aiuto economico importante e sicuramente ne avranno bisogno anche i privati, perché tantissimi capannoni industriali, tantissime serre sono state spazzate via dal vento. Incredibile la forza del vento, dicevamo anche a 160 km orari. La ringrazio intanto, sindaca Basanieri, grazie. Grazie. A lei, arrivederci. Sindaca di Cortona, vicino Arezzo. Poi torneremo a parlare di maltempo. Intanto parliamo della pagina economica con la decisione oggi della Banca Centrale Europea di lasciare i tassi di interesse invariati. E poi ci sono state le parole di Mario Draghi sulla Grecia, essenzialmente bocciata. Ha detto noi siamo la Banca Centrale della Grecia. E poi con l'annuncio dell'imminente acquisto di titoli di Stato che hanno avuto, le sue parole, quelle di Draghi, come primi effetti la caduta dell'euro contro il dollaro 1,1 al minimo da 11 anni e lo spread tra BTP e Bund tedeschi che è arrivato a 93 punti. Poi ne parleremo di questo nello spazio europeo. C'è anche la visita diplomatica di Renzi a Mosca. Ieri era in Ucraina, oggi c'è stato il vertice tra il presidente del Consiglio nostro, l'italiano, e Vladimir Putin, presidente russo. Il primo incontro è stato al Cremlino, il terzo tra i due leader. Si è parlato soprattutto di Ucraina e di Libia, ma anche di sanzioni. Ci colleghiamo tra poco direttamente con Mosca. E a proposito di Libia, le Nazioni Unite annunciano che a breve inizieranno in Marocco gli incontri per il dialogo politico nel paese. Forse già questa sera l'esercito ha annunciato una tregua di 3 giorni. Ma sentiamo il commento sulla Libia di Alberto Negri. Per favorire la mediazione dell'ONU avviata in Marocco, le forze del generale Khalifa Haftar hanno sospeso i raid aerei contro le milizie che fanno capo al governo parallelo di Tripoli, mentre a Mosca il premier Matteo Renzi, nell'incontro con il presidente russo Putin, ha affermato che Mosca può avere un ruolo decisivo per risolvere la crisi libica e nella lotta al califfato. Ma la verità è che la Libia per noi è un'eredità pesante da gestire. L'errore nel 2011 fu dare supinamente le basi NATO partecipando ai bombardamenti contro Gheddafi senza contropartite di alcun genere, né energetiche né sulla sicurezza. Ora andiamo in giro con il cappello in mano a perorare la nostra causa, ma non abbiamo punti di forza su cui fare leva, se non chiedere all'Unione Europea un maggior impegno contro l'immigrazione clandestina che i paesi del nord Europa non vogliono sostenere. In Libia abbiamo partecipato a una guerra che non volevamo e di cui paghiamo adesso le salate conseguenze. Il resto sono chiacchiere. Dalla Libia in Nigeria, dove è salito da almeno 68 morti il bilancio dell'attacco lanciato martedì scorso dal movimento integralista Boko Haram in un villaggio del nord-est del paese. Secondo testimoni, nell'assalto sono stati massacrati uomini e bambini, alcuni anche di 12 anni di età. Andiamo sulle notizie italiane con la politica. In serata, vi dicevo, ci sarà la riunione, si tiene la riunione della Lega Veneta per decidere come comportarsi rispetto all'atteggiamento della Lega Nord di Salvini con gli auto dati nelle ultime due settimane a Tosi, che si trova a questo punto davvero a dover fare una scelta. Secondo voi che scelta farà? Uscirà della Lega Nord? Creerà un suo gruppo? Potete scriverlo a 349-238-6666 per gli sms oppure sulla pagina Facebook di Effetto Note. Ma sentiamo anche la Presidente della Camera Laura Boldrini, visto che Mirka, ho visto poco fa, chiede: dottoressa Roberta, il ministro o la ministra? Questo è il problema, non c'è nessun problema se è una donna si dice ministra, se no ministro. Così dice anche Laura Boldrini, Presidente della Camera, che in vista dell'8 marzo ha esortato i parlamentari con una lettera, c'è stato anche un convegno in Parlamento, a declinare al femminile i nomi delle professioni e dei ruoli istituzionali per rendere il linguaggio e quindi di seguito la mentalità, la cultura e i comportamenti più equi. Sentiamola. Dunque bisogna declinare al femminile questi incarichi. Non è vero che è cacofonico, anzi diciamo che è anche corretto grammaticalmente farlo. Quando si dice però suona male è perché non siamo abituati, ma la lingua cambia con la società. È chiara questa cosa? Ecco, domani cambiamo argomento per l'ultima volta. Scusate, Silvio Berlusconi varcherà il cancello della Fondazione Sacra Famiglia di Cesano Boscone vicino a Milano, dove ha assistito finora i malati di Alzheimer, come prevede l'affidamento ai servizi sociali per la condanna sul caso Mediaset. Oggi ci sono state però, come vi facevo sentire all'inizio, nuove rivelazioni sulle telefonate intercettate fra l'ex Cavaliere e Tarantini. I protagonisti sono due, Silvio Berlusconi e Giampaolo Tarantini. Pagine e pagine di intercettazioni depositate dal perito in tribunale a Bari nell'ambito del processo sulle escort. Quella che fa più discutere è una in cui Tarantini propone di portare delle ragazze e Berlusconi risponde di sì, anche perché dice: stasera ho due bambine. Noi siamo messi così come uomini. Sì. Tu, io, Carlo Rossella, presidente di Medusa, Fabrizio Del Noce, direttore di Rai 1, ecco, l'unico ragazzo sei tu, gli altri sono dei vecchietti, però hanno molto potere. Io anch'io non avevo voglia, io ho due bambine piccole che tanto che non vedo, per cui una fa la giornalista in Mediaset allo Sport, è una napoletana molto simpatica, molto dolce, e un'altra bambina di 21 anni, brasiliana. In un'altra conversazione invece l'ex cavaliere si lamenta con Tarantini di quanto esce sulle agenzie, dove è accusato di frequentare ragazze minorenni. Non c'è una velina nelle mie liste, assicura Berlusconi, i miei prototipi si chiamano Carfagna, Gelmini, Prestigiacomo, Bergamini. In un'altra Berlusconi spiega che per rinnovare la classe politica dicono che bisogna mettere donne, ma le altre fanno schifo perché sono come Rosy Bindi. Le trascrizioni sono ora agli atti del processo in corso per favoreggiamento della prostituzione, in cui Giampaolo Tarantini è imputato insieme ad altre 6 persone. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Parliamo anche di casa, perché dopo 7 anni di calo le compravendite immobiliari nel 2014 tornano col segno più, con una crescita dell'1,8%. Il vecchio e caro mattone torna in auge. Dopo 7 anni bui sulle compravendite immobiliari, torna infatti a splendere il sereno. Nel 2014 si registra l'1,8%, ma fa ben sperare soprattutto il quarto trimestre, in cui le transazioni segnano più 5,5% rispetto allo stesso trimestre del 2013, ripresa che ha interessato soprattutto il nord e il centro e i capoluoghi di provincia, con la capitale che mette a segno quasi il 20% in più di transazioni. Non si vede però ancora una svolta svolta sui prezzi delle case, ancora in leggero calo. Gianni Guerrini, direttore dell'Osservatorio del Mercato Immobiliare dell'Agenzia delle Entrate. Diciamo che quantomeno c'è un po' di vento che ha spazzato via un po' di nuvole. Se il sereno torna e rimane non è mai certo, però i segnali sono sicuramente positivi. La cosa più importante è che i tassi tendenziali tra il terzo e il quarto trimestre del 2014 crescono e crescono in tutta Italia. Il calo dei tassi di interesse, il miglioramento dell'accesso al credito e soprattutto più fiducia da parte delle famiglie nel futuro. Questi fattori, secondo l'osservatorio, che hanno contribuito alla ripresa del mercato immobiliare. Alessandra Schepisi, Radio 24 e Sole 24 Ore, Roma. Per chiudere lo sport con il calcio, la Coppa Italia di nuovo stasera, la Coppa Italia con Juventus Fiorentina. Vediamo se ci sono delle novità sui gol con Dario Ricci. Dario? Sì, eccoci Roberta, siamo al 30° del primo tempo allo Juventus Stadium, partita scoppiettante, emozione a non finire e anche gol, perché siamo sull'1-1 Fiorentina, che è andata addirittura in vantaggio all'11° contropiede straordinario dell'egiziano Salah, vero protagonista di questa fase della stagione, 60 metri di corsa, tunnel a Padoin e sinistro a battere Storari, che questa sera difende la porta bianconera. Prevedibile la reazione della vecchia signora, che ha trovato il pari al 24° col cross dalla destra di Simone Pepe, incornato alle spalle di Neto da uno splendido stacco di testa di Fernando Llorente. Siamo al 32° quindi a Torino, 1-1 tra Juventus e Fiorentina. Grazie Dario Ricci, qui pare di se te ci fosse anche un toro in campo, però poi ci aggiorniamo anche sulla questione, sulla vicenda di Alonso, che sembra che sia rimasto smemorato per diversi giorni, però dopo, se troviamo il tempo. Intanto vedevo tra i vostri messaggi al 349-238-6666 Cleto da Pescara, che scrive: con la Lega ancora scissione, ancora un altro partito, ancora un altro simbolo, ma proprio non riescono a capire che non ne possiamo più. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Rieccoci insieme, stavo guardando ancora le ultime notizie, adesso vi aggiorno su quelle principali naturalmente. Se avete acceso in questo momento, ricordatevi però che Effetto Notte inizia alle 21, è ascoltato in tutto il mondo praticamente, quindi voi che siete italiani ritenetevi privilegiati e mi raccomando non perdete mai l'aggiornamento costante con Effetto Notte tutte le sere. Parleremo tra pochissimo del viaggio che procede di Renzi, ieri era in Ucraina, oggi a Mosca, in Russia, ha incontrato Putin, però prima le notizie. Dal 9 marzo questa è la decisione della BCE, della Banca Centrale Europea, acquisto dei bond. Draghi boccia intanto Tsipras, dice Atene, crea volatilità, noi siamo praticamente la loro banca centrale. Poi Renzi che frena sui decreti legge, il presidente della Camera Boldrini lo aveva criticato nei giorni scorsi, ma dice Renzi la Boldrini è uscita dal perimetro e poi chiede appoggio a Putin sulla Libia, ne parleremo tra poco. Per il maltempo, Italia flagellata da pioggia e vento, 3 morti tra Toscana, Umbria e Lombardia, le più colpite sono Toscana e Marche, e c'è stato anche un albero su una cabinovia in Val Gardena, sono stati salvati in modo rocambolesco 200 sciatori. La Lega Tosi verso lo strappo, questa sera c'è il consiglio della Lega Nord, e può succedere di tutto da questo incontro con Salvini, che dice c'è una frattura profondissima. E poi più vicino l'accordo fisco-vaticano sul segreto bancario, già con Liechtenstein e con Monte Carlo, con la Svizzera in questi giorni è successo, adesso anche dovrebbe succedere anche con il Vaticano. E poi le ragazze più brave a scuola, ma la matematica fa paura. Questi sono dati dell'OCSE, i maschi più bravi con il digitale grazie ai videogames. E poi Alonso smemorato, che pensate, dopo l'incidente che ha avuto giorni fa, aveva i ricordi fermi al 1995. Ma noi siamo sul presente di Renzi, Presidente del Consiglio, che ieri era in Ucraina, oggi ha incontrato Putin. In primo piano ci sono state certamente la crisi ucraina e anche la Libia. Sentiamolo allora proprio sulla Libia, un passaggio del discorso di Renzi. Dossier fondamentali per la stabilità e la sicurezza globale, a partire per noi dalla questione della Libia, alla minaccia terroristica e estremista in Libia, e ho condiviso con il presidente Putin la preoccupazione dei nostri paesi. Occorre una risposta internazionale incisiva e il ruolo della Federazione Russa, per la sua storia e naturalmente per il suo ruolo anche all'interno del Consiglio di Sicurezza delle Nazioni Unite, può essere decisivo. quindi ha chiesto aiuto alla Russia, anche insomma, di coinvolgerla nella questione della Libia. Poi oggi ha portato anche dei fiori in omaggio al dissidente russo che è stato ucciso venerdì scorso, l'ha portato sul luogo del delitto. Ma c'è Gerardo Pelosi con noi, per noi a Mosca del Sole 24 Ore. Geraldo, che cos'altro è avvenuto oggi? So che ha parlato anche di sanzioni, no? Perché noi siamo il quarto partner commerciale della Russia, ma da un po' le cose vanno meno bene proprio per le sanzioni dell'Unione Europea, no? Nei confronti della Russia. Ciao Gerardo. Buonasera a voi. Assolutamente sì. È stato un incontro molto importante per diciamo, i risvolti economici sicuramente, ma anche per quelli politici, di politica internazionale, del ruolo che sulla Libia al Consiglio di Sicurezza potrà avere la Russia. Qual è la preoccupazione di Renzi e che poi è stata la base di questo viaggio? Che paesi come gli Stati Uniti, ad esempio, che sono tra i più strenui sostenitori delle sanzioni, in realtà nell'ultimo anno hanno visto aumentare le loro esportazioni verso la Russia, circa del 12-13% secondo i dati delle dogane russe, ma secondo altri dati anche fino al 20%. Questo mentre l'Italia ha visto diminuire del 12% le esportazioni, la Germania del 13%. Beh, quindi quell'invito che fanno gli alleati occidentali e soprattutto gli Stati Uniti al cosiddetto sharing pain, cioè condividere le sofferenze, condividere i sacrifici delle sanzioni, beh, allora se da un lato c'è questo, dall'altro non ci può essere che un paese sulle sanzioni ci guadagni e gli altri ci perdano. Questo è il concetto che Renzi ha espresso anche ai rappresentanti della comunità economica e finanziaria italiana qui a Mosca stamattina, dopo aver reso omaggio al dissidente Nemtsov, portando una corona di fiori sul ponte sulla Moscova. E sono le cose che in parte anche ha detto a Putin. In realtà i temi della crisi internazionale, dell'Ucraina, della lotta al terrorismo, della Libia, si sono intrecciate fortemente ai temi bilaterali. C'è da considerare che in base alle norme europee concordate a Bruxelles, oltre alle sanzioni non si possono svolgere e tenere con Mosca dei vertici bilaterali strutturati. Ma che cosa è avvenuto in questi mesi? Che in realtà Putin poi ha avuto incontri in Ungheria, in Austria, ha ricevuto all'aeroporto di passaggio dal Kazakistan il presidente francese Hollande. E allora, insomma, queste cose devono valere per tutti o non devono valere per nessuno. E soprattutto Renzi che cosa ha fatto? Ha restituito quella dignità che ovviamente è il ruolo internazionale che la Russia ha, e lo ha fatto, diciamo, in un momento particolarmente delicato della vita internazionale con la lotta al terrorismo e la situazione della pacificazione in Libia. Grazie Gerardo Pelosi da Mosca. Arrivederci. Ciao Gerardo. Adesso stavo guardando ancora i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte e al 349-238-6666 sulla decisione che dovrà prendere questa sera Tosi. Vedevo anche un'agenzia, una sua dichiarazione di pochi istanti fa. Quello che io proporrò questa sera al Consiglio Nazionale della Liga, dice Tosi, è di spiegare al Consiglio Federale che il commissariamento per noi non è accettabile. Quindi diciamo che non c'è molto spazio per la mediazione. Ne parleremo tra pochissimo con Guido Gentili, editorialista del Sole 24 Ore. Parleremo appunto delle varie questioni che sono state al centro del dibattito politico in questi giorni. Una settimana connotata, dicevo, soprattutto dal conflitto all'interno della Lega. No? Per la verità già iniziato ufficialmente la settimana scorsa, quando il segretario della Lega Nord Salvini aveva avvertito il sindaco di Verona Tosi di non creare problemi, insomma, la ricandidatura di Zaia come presidente del Veneto nelle prossime regionali, che dovrebbero esserci, diceva Renzi qualche giorno fa, il 10 maggio si voterà. E Tosi qui a Effetto Notte aveva ribadito la sua autonomia, anche se Salvini sta cercando una mediazione, diceva oggi, per cercare di ricompattare la Lega. Vedremo che cosa succede questa sera alla riunione. Poi l'inattesa apertura del Movimento 5 Stelle al centro-sinistra sulla riforma RAI, il reddito di cittadinanza. E sentiamo magari Roberto Fico, deputato 5 Stelle, presidente della Commissione parlamentare di vigilanza sulla RAI, che qui a Effetto Notte nei giorni scorsi aveva proprio parlato di questa apertura, aveva detto qual era la loro idea della riforma della RAI, del Movimento 5 Stelle, e aveva anche detto che erano aperti al dialogo col centro-sinistra. Risentiamolo qui a Effetto Notte. E nel Parlamento per tutti i provvedimenti abbiamo sempre dialogato. Adesso la riforma della RAI è una materia propria del Parlamento e quindi cerchiamo di lavorare con tutte le forze politiche e apriamo anche al PD sul dialogo e su questa proposta di legge. Però il punto deve essere chiaro, che nessuno deve barare, l'obiettivo deve essere trasparente, ovvero la RAI finisce di essere appannaggio governo e del partito e dei partiti politici. Con questi due obiettivi allora poi possiamo dialogare, perché la mira è chiara, allora le forze in Parlamento possono dialogare con una tranquillità maggiore. E ieri Grillo ha ammesso in un'intervista al Corriere diversi errori di metodo, di strategia, ha invitato il centro-sinistra al confronto ufficialmente. Però sentiamo cosa ha risposto ieri qui in diretta a Effetto Notte Filippo Taddei, che è responsabile per l'economia e il lavoro del PD, sul possibile confronto con il Movimento 5 Stelle relativo al reddito di cittadinanza. Non è su quella proposta che ci si misura sulla capacità di offrire coperture credibili, cioè di rendere quella proposta fattibile. Quindi dove sono le risorse? Bisogna essere sicuri che ci siano le risorse, questo esatto, le dice. Qui secondo me arriva veramente la casca l'asino della credibilità di questo atteggiamento, perché vediamo un po' a vedere, non è che i 5 Stelle dicano non ci sono coperture, cominciano ad adottare una serie di coperture un po' particolari. Primo, la patrimoniale sui grandi patrimoni, e sa, io qui le dico, finanziare uno strumento ordinario, cioè che esiste ogni anno, perché se fai reddito di cittadinanza non è che lo fai un anno, lo fai tutti gli anni, con uno strumento, con un finanziamento straordinario, cioè una patrimoniale, io già capisce, sono un po' scettico sull'impostazione, perché mi dico, vabbè, il primo anno lo paghiamo con la patrimoniale, facciamo finta, ovviamente è una follia, ma il secondo anno che facciamo, come lo finanziamo? Questo era il parere di Taddei, Filippo Taddei del PD, rispetto alla proposta del Movimento 5 Stelle. Poi c'era stata la spaccatura di ieri sera nella maggioranza di governo sulla modifica della prescrizione. Il nuovo centrodestra aveva detto no, per noi 18 anni per allungare un processo diventano troppi per allungare la prescrizione. Doveva essere da 8 a 10 anni, invece poi è diventato 18 anni con un emendamento votato ieri. C'era da noi in diretta, qui a Effetto Notte, Dorina Bianchi, capogruppo dei deputati del nuovo centrodestra. Però adesso magari la sentiamo dopo se c'è tempo. Vorrei coinvolgere Guido Gentili, che abbiamo finalmente raggiunto, editorialista del Sole 24 Ore. Ciao Guido. Eccoci, ciao. Insomma, moltissime cose di cui discutere, no? Dicevamo all'inizio del conflitto dentro la Lega, stasera si aspetta un po' la resa dei conti con questa riunione della Lega Veneta con Tosi. Che farà secondo te Tosi, Guido? Ma io credo che i giochi siano fatti, nel senso che ci sarà una rottura tra Tosi e Salvino, almeno questo mi sembra la prospettiva più prossima nelle prossime ore. Ma invece rispetto, adesso aspettiamo perché vengono fuori man mano delle dichiarazioni di Tosi, rispetto invece alla proposta, all'apertura del Movimento 5 Stelle nei confronti del PD, dicevo, abbiamo sentito prima Taddei molto scettico rispetto al reddito di cittadinanza, sì. E Renzi, oggi è uscita le anticipazioni dell'intervista che ha fatto all'Espresso, nella quale dice Berlusconi è sempre il leader del maggior partito d'opposizione, quindi in pratica riprende a dialogare con lui, dice in fondo Grillo si marginalizza, quindi è stato un tentativo, l'ennesimo mal riuscito di Grillo, il centrosinistra, di provare a confrontarsi anche questo? Ma io credo che Grillo certamente è stata la prima volta che ha rotto il muro dell'incomunicabilità che aveva alzato il Movimento 5 Stelle e quindi ha fatto una proposta politica o quantomeno un metodo nuovo di confronto anche con il PD. Che questo poi porti a dei frutti in poco tempo io non credo. Credo che politicamente ci sia comunque molto lavorare su questo terreno. E quindi anche poi nelle varie proposte specifiche credo che bisognerà attendere che ci sia veramente questo metodo nuovo di confronto che io ancora, ripeto, non vedo. E poi c'è, non irrilevante, Guido Gentili, anche questo duello a distanza tra Matteo Renzi e la Presidente della Camera, Laura Boldrini, no? Perché sempre intervistato dall'Espresso, sostiene che la terza carica dello Stato, la Boldrini, e Maurizio Landini, leader della FIOM, siano espressione di un movimento a lui ostile. Boldrini e Landini fanno i leader della sinistra, ha detto. E Boldrini sarebbe, diciamo, colpevole di aver criticato la scelta di Renzi di utilizzare eventualmente un decreto legge per la riforma della RAI. Le ha detto non c'è nessuna fretta, non c'è nessuna urgenza. E anche lei di aver segnalato che alla fine sul Jobs Act Renzi non ha voluto sentire minimamente le possibili modifiche, i pareri delle opposizioni o comunque delle commissioni parlamentari. Beh, sul Jobs Act la legge dice che il parere delle commissioni è un parere dovuto ma non è vincolante, quindi da questo punto di vista il rispetto formale della legge da parte di Renzi è pieno. Dal punto di vista politico sappiamo che la terza carica dello Stato, cioè la Presidente Boldrini, ritiene, diciamo, un sostanziale, diciamo, pericolo in prospettiva per una democrazia, per l'Italia, quello che lei ha definito un uomo solo al comando, e ha anche criticato l'eccessivo uso dei decreti legge. Ora, che i decreti legge siano troppi è vero, e credo che il governo farebbe bene a non farne, diciamo, un uso spropositato, però è anche vero che questa tendenza valeva anche per i governi precedenti, e quindi qui siamo a un fenomeno più complesso che non è dovuto solo alla responsabilità del governo Renzi. Per quanto riguarda l'altro discorso, ovviamente è un discorso politico, un giudizio politico che dà il Presidente della Camera, che sappiamo anche, diciamo, è stata eletta con i voti di Sel, e quindi voglio dire che da questo punto di vista è chiaro e trasparente il giudizio politico, e questo ovviamente è un confronto di carattere politico, e non confonderei i due piani, cioè quelli dell'operatività parlamentare con quello politico. Vedo un'ultima agenzia, Salvini, che dice a Tosi: i problemi sono fuori e non dentro. Insomma, se lo dice lui, poi capiremo stasera che cosa succede. Grazie intanto, Guido Gentili. Grazie a voi. Ciao Guido. Ciao, buonasera. Ci prendiamo questa pausa, vedo altri vostri messaggi. Tosi, dice un ascoltatore, ascoltatrice, ha davanti due strade, una via sterile e distruttiva alla fine, oppure costruire una gamba centrista alleata col centrodestra, meglio di Alfano o Passera. Questo al 349-238-6666 oppure sulla pagina Facebook di Effetto Notte. Effetto Notte, le notizie in 60 minuti. Roberta Giordano sempre con voi e con me, i vostri messaggi sulla pagina Facebook di Effetto Notte al 349-238-6666. Fra tanti vedo Paolo da Modena che scrive: Tosi rientra alla base con un compromesso, non vuole fare la fine di Fini. Tra pochissimo ci colleghiamo per capire come sta andando questa riunione della Lega Veneta. Vi ricordo brevemente le notizie più importanti di oggi. Piano il maltempo col centro-sud flagellato da vento e raffiche e piogge, raffiche di vento, 3 le vittime, una in Toscana, una in Umbria e una in Lombardia, 200 persone salvate da una cabinovia bloccata in Alto Adige. La decisione della Banca Centrale Europea, dopo le parole di Draghi, euro e spread in caduta libera, dal 9 marzo acquisto di titoli di Stato. La visita di Renzi a Mosca, nell'incontro con Putin, in primo piano Libia e Ucraina, ma anche sanzioni. Le tensioni nella Lega Nord, di cui parleremo tra poco, e poi per lo sport, Coppa Italia, Juventus, Fiorentina dovrebbero essere sì, sempre 1-1 in parità. Chiedo Vincenzo Miglietta, che sta seguendo le vicende della Lega questa sera, la riunione della Lega Veneta. Io leggevo fino a poco fa delle dichiarazioni tra Tosi e Salvini, c'è qualcosa di nuovo, Vincenzo? Sì, buonasera ai nostri ascoltatori. La novità proprio degli ultimi minuti è che in effetti, come diceva un nostro ascoltatore nel suo SMS, sembra che si possa andare verso un compromesso, perché Tosi poco fa ha detto: se si ristabiliscono le regole interne, ovvero sia che la Lega Veneta può essere autonoma, allora il problema è già risolto. Queste le parole poco fa di Tosi, quindi da parte del sindaco di Verona si rivendica l'autonomia via da parte della Liga Veneta e si boccia il commissariamento deciso pochi giorni fa dal Consiglio federale di via Bellerio. Quindi, Roberta, sembrerebbe forse che la situazione possa andare verso un compromesso e quindi la palla possa tornare a via Bellerio, quindi al Consiglio federale della Lega. Grazie Vincenzo Migliette. Quindi in qualche modo ha anche ragione Giovanni sulla pagina Facebook di Effettonota che dice: Tosi accetterà, come sempre avviene in politica, si preferisce quietare tutto. Dobbiamo parlare anche di maltempo, vi dicevo, un po' in tutta Italia aveva fatto un capolino, un anticipo di primavera, poi quello che è successo, sta succedendo soprattutto nel centro-sud Italia con forti piogge, violente raffiche di vento, ha fatto archiviare un po' questa speranza del bel tempo. Le regioni più colpite, dicevamo, sono la Toscana, l'Umbria, l'Emilia Romagna, le Marche, l'Abruzzo e il Lazio. Anche in Val Gardena avete sentito, in Alto Adige, 200 sciatori rimasti sospesi a una cabinovia, poi sono stati salvati con un elicottero. Il presidente della regione toscana, Enrico Rossi, ha chiesto lo stato di calamità per la sua regione. Lo ha raggiunto al telefono Roberta Pellegata, sentiamolo. Quadro allarmante. Io stamane ho dichiarato lo stato d'emergenza, è una cosa che non si era mai vista, di questa vastità e di questa intensità. Si parla apertamente di un uragano. Diciamo con chiarezza, e l'abbiamo già detto a Palazzo Chigi, che abbiamo bisogno di una mano per aiutare le zone più colpite. E il maltempo purtroppo ha provocato anche due vittime, una tra l'altro proprio in Toscana, nel comune di Borgo a Mozzano, vicino Lucca. È morto un uomo di 41 anni che era alla guida della sua auto, è stato travolto da un masso che si è staccato da una parete rocciosa. La donna che era accanto a lui è rimasta illesa, però appunto si conta questa vittima in Toscana. Vi dicevo, una delle regioni più colpite. Allora vorrei sentire il sindaco di Firenze, Dario Nardella, che saluto. Buonasera, sindaco. Buonasera a lei, radioascoltatori. Firenze, la sua bellissima città, come sta? Ci sono danni? I danni sono abbastanza rilevanti, anche se non così gravi come in altre province della Toscana, e in particolare sul nostro patrimonio arboreo. Sono proprio ora di ritorno da un sopralluogo al Parco delle Cascine, dove abbiamo visto molti alberi secolari completamente sradicati dal vento che ha raggiunto 150-180 km orari perfino, e qualche danno alle scuole. Siamo stati costretti a chiudere 3 scuole e infine la chiusura di alcune strade, l'interruzione di servizi di trasporti come la tranvia, che però proprio diciamo nel pomeriggio, nel tardo pomeriggio, è stata riaperta. È vero che ha sconsigliato alle persone di andare in motorino a Firenze? Abbiamo invitato alla massima prudenza nell'usare veicoli, appunto soprattutto a due ruote, ma anche automobili, perché è chiaro che in questo caso è meglio avere un livello di allerta alto rispetto alla normalità. Del resto dobbiamo cominciare un po' a fare i conti con queste calamità che sono sempre più frequenti e purtroppo con un livello di imprevedibilità molto, molto labile, molto incerto. E faccio l'ultima domanda, sindaco Nardella. Diceva di scuole chiuse, ma anche domani sono chiuse o no? Dunque, le situazioni più critiche rimarranno anche per questi giorni per poter ripristinare, però fortunatamente rispetto ad altre realtà, penso a Pistoia, a Prato, la generalità delle scuole è aperta, anzi abbiamo anche voluto evitare l'effetto opposto del panico per un eccesso di diciamo di allarme, chiudendo le scuole in modo ingiustificato senza rischi effettivi, ecco. Bene, meno male, almeno per Firenze. Grazie sindaco Nardella. Grazie a lei. Grazie, buona continuazione, grazie. E una vittima purtroppo c'è stata anche nelle Marche, Urbino. È morta una donna schiacciata da un albero sradicato dalle fortissime raffiche di vento che, vi dicevo, ci sono nel centro e nel centro-sud. E sulla situazione di Urbino vorrei sentire il sindaco della città, Maurizio Gambini. Buonasera, sindaco. Buonasera a voi. Senta, come è successa questa tragedia? Qual è la situazione nella vostra città? Tra l'altro leggevo che questa donna di 49 anni, il marito aveva perso il lavoro, era lei che manteneva la famiglia, due figli, quindi una tragedia nella tragedia, insomma. Sì, è una tragedia immane che sta all'interno purtroppo di un evento atmosferico stamattina che ha sradicato tantissime centinaia di piante, una situazione veramente drammatica, tanto che l'università ha deciso di sospendere le lezioni, noi di chiudere le scuole per domani per la verifica anche degli stabili, perché c'è stato anche un crollo di un muro, talmente il vento era forte che c'è stato il crollo di un muro all'asilo, al nostro asilo, e quindi diciamo che è un evento eccezionale. La pianta che ha che ha colpito la persona che purtroppo è deceduta, era una pianta solida, ma purtroppo il vento era talmente forte che l'evento è stato traumatico. Veramente è una situazione che si pensa così, spostava un vento che spostava le macchine. Io adesso non so quantificare l'intensità, però veramente una cosa. E fra l'altro c'è anche l'allerta meteo della Protezione Civile che potrebbe, diciamo, continuare anche nella giornata di domani. Quindi c'è stato questo evento, ma non è stato solo l'evento della, purtroppo, che ha causato la morte di questa persona. Quindi siamo veramente, sono qui ancora in comune proprio per emettere l'ordinanza di chiusura delle scuole per domani, perché ci sono stati tetti che sono stati divelti, cule che si sono staccate, cioè una situazione veramente fuori dalla norma. Immaginiamo, ci auguriamo che davvero entro domani la situazione possa almeno un po' attenuarsi. La ringrazio, Sindaco Gambini, grazie, ci saluti Urbino. Buonasera, grazie a voi. Grazie. Buonasera, grazie. Effetto notte, le notizie in 60 minuti. Anzi, pochi secondi, adesso che siamo veramente di fretta. Dal 9 marzo la BCE acquisterà i bond, i titoli di Stato, ne parleremo tra poco. Poi Renzi in Russia che chiede a Putin un appoggio sulla Libia, dice il ruolo della Russia è decisivo, il maltempo, Italia flagellata da pioggia e vento con 3 morti. E poi la Lega si aspetta la decisione nella riunione in questi minuti della Lega Veneta rispetto a Tosi, che cosa farà, ci sarà lo strappo con Salvini oppure no. E in Coppa Italia Juventus-Fiorentina sempre 1-1. Europa 24 notte. Dicevamo quindi della notizia delle decisioni prese oggi dalla Banca Centrale Europea, che ha creato varie conseguenze, e pare che comunque sia stato dato l'annuncio del quantitative easing dal prossimo 9 marzo, cioè praticamente si aggiornava. Diciamo che produrrà più moneta, più euro la Banca Centrale Europea per comprare i titoli di Stato, quindi il debito. Sì, finalmente si parte lunedì. L'annuncio già c'era stato a gennaio, ma la data non era stata fissata. Oggi da Nicosia Draghi l'ha detto, sarà lunedì. 60 miliardi al mese di acquisti di titoli sul mercato secondario. Cosa vuol dire? Entra più denaro in circolazione, si produrrà ovviamente anche maggiore inflazione, ma soprattutto tanti, anche, prendiamo i mutui ad esempio, dovrebbero essere più accessibili, a livello, diciamo, di economia circoleranno più euro, si rimpolperà un po', lo abbiamo visto, ha funzionato in America, speriamo funzioni anche in Europa, anche se da noi arriva un po' tardi, però questo finalmente avverrà. La cosa importante di Draghi è che oggi ha fatto tornare il sereno anche un po' sulle previsioni della crescita economica nell'Eurozona, ha alzato di qualche decimale le previsioni precedenti, insomma si parla di un più 2% sostanziale nel 2016-2017, l'inflazione dovrebbe arrivare vicina al 2%, quindi al target BCE tra 2 anni, quindi qualcosa almeno secondo Draghi si muoverebbe. E insomma, se guardiamo alle riunioni del board BCE degli ultimi mesi, diciamo degli ultimi mesi 2014, il messaggio che è passato oggi è decisamente più ottimista. Interessante anche la Grecia, ecco, di questo è importante giudizio parlare, negativo, perché Draghi di fatto ha bacchettato abbastanza il governo Tsipras, ha detto noi siamo molto impegnati verso la Grecia. Ieri, proprio oggi, la BCE ha aumentato i 500 milioni il fondo di emergenza per le banche elleniche, e ha sfiorato realmente il sarcasmo Draghi quando ha detto di fatto la BCE è la nuova banca centrale greca, perché abbiamo un'esposizione di più di 68 miliardi, quindi di fatto ormai stiamo tenendo in piedi noi la Grecia, e per questo ha invitato in modo abbastanza esplicito gli esponenti del governo Tsipras e il ministro delle finanze Varoufakis in particolare a evitare dichiarazioni che possono creare ulteriore volatilità e incertezza sui mercati finanziari. Insomma, da Draghi oggi una inconsueta, potremmo anche dire, bacchettata al nuovo governo greco. Questa un po' è stata la sintesi, se vogliamo, di questa importante riunione della BCE a Nicosia, e da lunedì insomma si parte. Speriamo veramente che questa iniezione di liquidità porti effettivamente a una ripresa anche economica in Europa. Così e in speriamo. Grazie Sergio. Grazie a voi. Ciao Sergio. Ciao. Europa 24 notte, in collaborazione con Euronet Plus. E visto quello che sta succedendo oggi con il maltempo, subito ci dobbiamo riferire a Paolo Corazon di Trebi Meteo. Caro Paolo, questo vento per caso, a parte i danni che sta creando purtroppo e anche 3 vittime, è portatore di primavera? Ma guarda Roberta, qualche buona notizia riesco anche a tirarla fuori, anche se ti dirò domani sarà ancora una giornata un po' critica sul medio adriatico e al sud, ma con fenomeni meno intensi rispetto ad oggi. Probabilmente oggi sarà la giornata peggiore di questa ondata di maltempo alla fine, però settimana prossima avremo un netto miglioramento del tempo, nel senso che finalmente respireremo aria di primavera, già nel weekend ci atteniamo un miglioramento, ma ti ripeto, da lunedì il clima cambia, l'atmosfera cambia e finalmente ci siamo, dai. E ci siamo anche domani, Paolo Corazon, ricordati l'appuntamento sempre del venerdì, dobbiamo capire bene il fine settimana in modo circoscritto, d'accordo? Grazie sicuramente, ciao, buon tempo a tutti. Grazie, ciao Paolo Corazon. E vedo ancora vostri messaggi sulla scelta di Tosi e dobbiamo chiudere prima che abbia preso la sua decisione, lo saprete quando vi sveglierete domani mattina probabilmente, o magari non so, con un aggiornamento nei prossimi giornali radio. Noi ci lasciamo in questo momento, ma lo sapete, poi ritorno per ricordarvi giusto le notizie principali.